avanti. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno? CQ10, c'è qualcuno? Allora, chi c'è con la tua canale? Ma io, fatemi sentire, sto provando un 3009. Arrivato adesso, mi fresco fresco. No, non ce n'è più nessuno, mi. Ma io, c'è nessuno? Uno da tre stella? E beh, Claudio! Ehi, Natalino, mi sto provando 3009 Superstar con MB più 5, com'è? Ehi, già va bene. Ehi, mi hanno regalato, ma amico, sono andato a aiutarlo oggi. Lo stavo provando, infatti volevo sapere se funzionava, perché non l'ho mai usato, nuovo nuovo. Perfetto. Come va? Si può modulare? Sì, sì. Beh, cappa. Tutto cromato, ma anche il tuo è cromato davanti? Eia! Che questo cromato, bello, Lucio, bello. Vediamo. No, io qua non capisco, non mi ricordo. S/RF è il coso. Queste sono le stazionarie. Questa è la calibrazione. Cal. Eccola qua, stazionarie. Niente stazionari. È perfetto lo strumento, indica lo stesso quello che indica la T250, vero e stazionario. Aspetta un attimo, sto facendo una cosa, devo scrivere roba un attimo. Ehi, fai. CQ10. Avanti, buonasera. E come mai c'è qualcuno? Ah boh, non lo so, c'era anche Claudio poco fa, siccome stavo scrivendo roba al computer, magari si è allontanato, non lo so, provo a chiamarlo. No, lui è vagabondo, va un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' a destra, un po' a sinistra. Ascolta, Natale, mi dici come mi stai ascoltando? Che ho avuto un guasto proprio sull'antenna, non sull'antenna, l'antenna va benissimo. Dunque il cavo, solito connettore, adesso l'ho ripristinato, gli strumenti mi dicono che sta andando, però volevo sapere da te se effettivamente sta andando. Certo, stai arrivando veramente bene. Anch'io ho avuto problema di connettore, ne ho ordinato 12, speriamo che mi arrivino in fretta, che devo cambiare un po' di PL. Purtroppo ogni tanto capita, qua d'altro ce ne sono tanti di connettori, quindi, ma qualcuno che mi ha rotto veramente la scatola, sai cosa ha fatto? Ho preso dei cavi, li ho saldati, li ho vulcanizzati e si sono, e adesso già non si staccano, non c'hanno problemi e forse c'hanno anche meno perdite. Ma stai arrivando bene, io vedo che stai arrivando bene. Lo so, però mi hanno massacrato gli insetti, ma vedi, ho dovuto fare un lavoro, ho fatto attore, anche qui c'è un caldo bestiale di nuovo. Vabbè, vuoi l'antenna? Vuoi il baracchino? Vuoi il VHF? E allora, pigliati questi connettori, così ti impari. E parli col muro. Soprattutto parli col muro. capito mi hai? Sì, già ti ho capito, io anch'io stavo per parlare con Muro, se non trovavo un piede da poter piazzare nel 213, che girava per gli affari suoi. Girava per gli affari suoi, ma soprattutto girava tanti puntini, con le cose tonde. E niente, io tra l'altro questa è una maschio o femmina, no? Che serviva come coso, come collegamento dalla centralina che c'è fuori alla centralina che c'è all'interno. Quindi il mio pensiero è stato, ma l'antenna, forse quel vento, il caldo, sai, ormai inizia a avere la sua età, sono andato, controllato, no? Perfetta come sempre. Volevo dire una cosa, Claudio, ieri abbiamo iniziato il corso, torna, abbiamo iniziato, speriamo che vada avanti. Oh signor, si è anche divertito qualcuno, mi voleva fare il trabocchetto, ma l'ho fregato. Sono qua a Natale che sto mettendo a posto questo superstar. Ciao Gianfra, stavo testando per com'era in perfetta isonda, cazzo nuovo. Come stai uscendo? Bene Natale? Ehi, stai uscendo bene, io ti sento bene, c'è anche Gianfranco qua. Ma te ne do controllo a te, così ti impari a lasciarmi la rasura. Sono andato a casa per scaricare tutto, c'era una roba in macchina, mi ha dato davvero, capito? Quindi ho scaricato, ho fatto la voce, era tutto appiccicoso già fra. Poi ho acceso la radio ma non c'era più nessuno. E allora mi ho piazzato questo Superstar 3009 che mi ha regalato quella persona lì. Lo sto provando, nuovo, ma se lo stacco lo mettiamo assieme agli altri veicolari, tanto non li uso io, però è bello, è nuovo, esce anche molto bene di radio, confermi? Sì, esci bene di radio indubbiamente, però il mio apparecchio ti riceve male, è sempre il solito problema, no, Claro? Della banda stretta, il President. E niente, forse per lui è troppo forte, troppo, che ne so, boh. L'ho letto anche cosa, ma non c'è niente a riguardo su questo problema. Non so, sta andando 8 watt, 6 watt, modulati 8 watt, microfono è l'MB più 5 di tavola, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Vabbè, dai, continuate che metto in ordine qua, ci sentiamo dopo, ok? Ok, va bene, no, io ho finito una riparazione, adesso c'è un caldo fuori, ma maledizione, poi ci sono gli insetti che appena ti vedono ti saltano addosso. Riprendi Natale. Eia, cosa ti volevo dire? Speriamo che mi arrivino in fretta questi PL, mamma mia. Ehi, no, dovrai mica fare chissà che cosa, amico, già non ti licenziano per quello. Natale, fai una prova, parla molto vicino al mio, stai andando benissimo, non è per te, è per me. Prova a parlare il più vicino possibile al microfono, voglio vedere se anche a te lo fa questo effetto quando la radio è troppo forte, prova. Guarda un po', adesso sono vicino proprio al microfono da tavolo, è l'MB più 4, questo qui è. Ma che... sei perfetto, ripeto, di radio. La puoi aumentare fino a essere esagerata? Sì, è bassa adesso, a metà, aspettami. Adesso l'ho aumentato, guarda, aumenta. Sì, visto, inizia già a farlo. Aumenta ancora un pochettino di più, magari alza la voce, perché la tua la voce è un po' tenue rispetto a quella del Claudio. Prova a parlarci proprio dentro. Guarda, vedete, adesso sto anche con la voce alta, dai. Sì, infatti non ti inizia già a tagliarti tutto. Sì, c'è una banda strettissima, strano, non è un difetto, però sulla 27 può essere un difetto, chissà perché, comunque vabbè, riportalo come era prima che andava bene. Va bene, adesso lo riportiamo come era prima, ecco così, così era come era prima, dai. Non dovrebbe tagliare, c'ha le cosce strette quello lì. Sì, è molto stretto, forse perché è dedicato più che altro alla banda laterale, e il presidente è quello civili, diciamo, per uso così, io lo uso per evitare di usare l'altro, che è un peccato, ma anche sull'altro, che è quello lì, veramente i filtri sono proprio stretti, anche sull'altro tende a tagliare le modulazioni. Sul ricevitore invece non ho provato, perché quello può, ricevendo anche le broadcasting, può allargare il filtro a go-go. Tutto lì. Va bene, comunque l'importante, vediamo un po' se stazionare. Ora non è segno, prima erano 6-7, perché era preso staccato. Te le immagini, maledetti TLA. Sì, anche io adesso l'ho attaccato al rosmeter proprio perché non mi fido più, così mi segna le stazionarie, non mi fido, ed è giusto, perché è giusto, io me ne sono accorto dallo strumento dell'apparecchio che è perfetto questo rosmeter, e poi adesso gli ho attaccato quello esterno ed è uguale, dai. Caspitina, te l'ho detto, c'avevo il piede mollato che girava per gli affari sui, il centrale, il positivo. Sì, stiamo parlando sempre di quello, di quelli in Teflon, quelli tanto buoni, tanto cose in Teflon. Ma me ne siamo da mezzo, ci sono quelli in baccherite, quelli rossi, che li puoi stagnare fino anche a fuoco, e non si deforma. Oh. E io ne ho preso 12 di quelli in bacchelite, non ne voglio di quelli in Teflon. Oh, pucci. Adesso mi faccio l'ispezione in RG213, ben fatti, controllati e tutto prima di piazzarli. No, non ne voglio più, dai. Questi che ispezioni del cavolo li elimino. Troppa spazzatura, Cinzia. Troppa spazzatura, veramente. Allora, cosa facciamo? Devo fare una prova anche qua. Natali, dove li ha messi gli occhiali che non li trovo? Non lo so, guarda dove li appoggi di solito. Io non sono lì. E poi non ti vedo più a colori, non c'ho il computer spento adesso. No, il fatto che mi sono preso un paio di occhiali per trovare gli occhiali e poi un altro paio di occhiali per trovare gli occhiali che servono per trovare gli occhiali. Alla fine è che non li trovo tutti e tre. E vabbè, e dunque, allora hanno detto che se io provo ad aumentare sta cosa, quello lì si brucia. E qui che casca l'asino. Faccio una prova, Natali, mi devi dire se la radio peggiora, dovrebbe peggiorare parecchio, Guarda, eccoci qua. Attenzione Natalino, è peggiorata, vero? È andata in saturazione, Gianfra. Lo sapevo io. Ecco, guarda, adesso ho diminuito. È sempre in saturazione? Sì, quasi quasi, non ti sento. Sì, è in saturazione forte. Te l'ho detto io che non le piace. Non le piace, vediamo un po'. Ecco, adesso la voce è ricomparsa. Però probabilmente è sempre mezzo saturo. Eia, sì, rimettilo come era prima. Vediamo un po'. Meno di così non si può. Adesso com'è? No, adesso sei comprensibile, non sei saturo. Poco fa eri in tutti i passaggi eri saturissimo nell'ultimo. Entra troppo pilotaggio, quindi è così, è inutile starlo a dire, più di così non se può. E vabbè, tanto si usa. Io non posso usare nessun apparecchio perché c'ho gli spezzoni tutti andati a male, erano in RG58, adesso me li faccio come si deve, come mi arrivano i PL, li rifaccio, tanto già sono quelli in bachelite, li faccio in 213 che già ne ho qua e li faccio proprio a misura, ben fatti. Vogliamo fatti bene, sì, perché qua anche senza antenna, diciamo, è così regola, ma secondo quell'apparecchio che prendi, sì, dopo 3-4 colpi importanti, se non te ne accorgi, va a fuoco. Vediamo un po', tu mi senti sempre, Natalia, perché adesso sono anche circa 2 watt appena, con 2 watt va bene, sì? A voglia! Stai arrivando alla grande qua. Vabbè, come diceva il lupo all'agnello, anche questa è fatta. Adesso ho trovato un altro paio di occhiali, sono 2 e 3. E vabbè. Mettiamo a posto un po' di strumenti perché sono delicatucci questi. Prenditi anche uno strumento in solito sicurezza, per le antenne. Cosa mi prendo? Uno strumento per tenere d'occhio le antenne. Ce l'ho, è collegato. Ma tutte le antenne? Quella che sto usando adesso. Poi ne ho anche uno che è della MFG qua, che accorda pure, però cosa, non lo uso qua. Tanto stazionario non ce n'è, gli ha attaccato l'SX200 della Diamond per tenerlo sotto controllo proprio. Sì, perché non c'è da fidarsi, tra vento e cose varie, non c'è picco però, che strano. Non c'è il piccolo è andato, adesso c'è il piccolo, adesso satura per caso, senti i fenomeni di saturazione, dovrebbe essere aumentata un po' la radio. No, non ce n'è di saturazione, sì, chiaro. Va bene, spero che comunque c'è un pochino di amplificazione, un leggero picco positivo. Meglio di così. Natalia, hai già mangiato? No, negativo. Mia moglie non è ancora rientrata e poi già più tardi, quando rientra mia moglie. Tutti a vedere i preparativi per la cavalcata. Sì, sì, già non devo andare da nessuna parte. E non te lo mangi un bel panino di quelli con quei salamini che fanno lì all'aperto, quella roba lì, e così almeno stanotte dormi tranquillo, che digerisci tutto. No, no, poi il pane a me mi fa salire la glicemia, meno ne mangio e meglio è. Ma bisogna vedere se quello che ti danno è realmente pane o è cingomma. Ma cosa ne so io, poi non, già me la faccio io la roba a mangiare, non ti preoccupare, che non ne prendo lì. Oh signor, l'altro giorno mi ha mangiato una passata di pasta al forno, lo sai, non mi ha fatto salire neanche la glicemia. Ma buona, mamma mia. Adesso mi ci sono uscite 500 euro che mi ho dovuto comprare il frigorifero nuovo, perché quello là mi si sono marcite le cerniere delle porte in quello vecchio, e me l'ho dovuto cambiare per forza. Attento Natale, si ascolta questa piccola stazioncina, cambia. Già ti ascolto, già ti ascolto. Andrei, in compagnia di chi sei? Atta, dai, sto partendo. Tappa Gianfranco e c'è Claudio in ascolto che sta facendo roba. Andando, sai. Sì. E fine settimana, dai, ci facciamo. Fai bene, beato te. Ehi, un lavoro, sto avendo un lavoro. Dai, lo facciamo per i bambini. Ehi, già lo so, stavo scherzando. Oh, signor. Va bene, dai, vi chiamo, sono sulla 131, direzione Olbia. Cappa, va bene, avanti Gianfranco. Sì, saluto, amico, ma non l'ho riconosciuto, ma lo ricordo. E ne approfitto, Natalia, anch'io devo andare a mangiare qualcosa. Sono tutto sudato per attaccare quell'impriato, ma le ficco di pelle comunque. Vabbè, anche questa è fatta. Adesso mi do una bella lavata e poi me ne vado a cenare. Ci sentiamo, dai, Natalia. Buona serata anche all'amico che stai mangiando verso Olbia. Cappatino era, Tino Muscolo. Ok, allora Gianfra, se devi andare a cenare, ci sentiamo alle prossime, dai. Grazie per le chiacchiere che abbiamo fatto stasera. Ci sentiamo alle prossime, dai. Aspetta, Gianfra, io sono. Vediamo il controllo dalle tue parti. 9:15, Radio 5. Andare, va bene, dai. Ok, ciao ciao. Ciao Gianfra, ciao. Natale, ti chiamo più dopo che sono in mezzo al traffico, dai. Ciao. Eia, già sono in quel Rix. Sto aspettando che rientri Claudio. Quello sarà ancora digerendo la rustica di stamattina, quindi lasciagli la pancia calma. Si arrostendo stava la faccia mia, quel pedivella malefico. E allora, va bene, dai, ciao ciao. Ciao ciao. Sì. Chi è che stava arrostendo tu? Cata Lucellino Verde mi ha detto che ti hai fatto la rustica alla faccia mia. Bubu. Ogni tanto bisogna farlo. Mamma santa, aiutare un amico e poi ce ne siamo andati. Da lui a rostire. Siamo entrati poco fa. Mi stavo provando questo 3009 che mi ha regalato. Esce molto molto bene. Chi era quello che ti ha salutato? Non ho riconosciuto in questa radio. Chi era? Tino Muscolo che sta andando verso Olbia. Adesso ci chiama quando è sulla 131 che è in mezzo al traffico adesso. Capito. Ieri abbiamo iniziato attorno al corso, io non ho toccato libero, però chiede a Antonio a vedere se ne so. Io so tutto, non so niente, continua così, ti ho detto già l'altra volta, continua così, io so tutto, so chi è avanti, chi è indietro, chi sta seguendo il corso, chi se ne sta sbattendo le balle, io so tutto. Va bene, vediamo se mi sente Tino. Tino, mi senti? Claro, io già ti ascolto, adesso sono fermo da Tuis che devo prendere una cosa. Ma mi sembra strano, non mi ascolti tu qua. Allora ti ascolto, 5556. Ehi, sono fermo, a mezze palazzi adesso. Ehi, sono col Galaxy, poi vediamo se mi accoppi. Andrei, dai, ti chiamo dopo. Ehi, positivo. Aspetta Natalia, aspetta, vada bene, mamma mia, c'è una certa di cazzo, tutte queste cose ho mangiato, pare che ho mangiato a sua. Sì, vai, magari beviti qualcosa di fresco. Avevamo già dovuto pagare 500 euro il frigorifero, costava burro di più, Ehi, io sono lì per lì, ma non male, ne ho due, uno nel Carverio. Ma uno sta già calando, c'è un sacco di anni sta calando, ho attivato l'altro. Mo vediamo, se continua anche io avevo cambiato. No, vado a bermi un bicchiere d'acqua fresca, arrivo subito. Aspetta, se risponde Tino, poi lo rispondiamo. Va bene. E voi la cosa pesca, devi averlo, frigorifero nuovo. A me mi sono marcite le cerniere e non chiudevano bene le porte giù. Buonasera, comunque ben entrato. E purtroppo me l'ho dovuto comprare nuovo, di quelli grandi, no? No frost, no fottiani ghiaccio. Me l'ho preso, l'ho pagato, però è bello come frigo. se vedi il mio, prova a chiedere a Franco California a vedere com'è il mio frigo. E poi oltre a quello anche il possesso. Vabbè, io guardo all'americana con due sportelloni grandi. Sì. Io ce l'ho uno due sportelli lo stesso, di quelli grandi, e anche è un barragione, quindi il pozzetto non ce ne sta, perché se metto anche il pozzetto me ne devo andare io via da qua, che non c'ho posto. Un pozzetto piccolino avevo comprato, perché in un primo momento sembrava che non funzionasse più. Credo, io è che non c'ho posto, ma questo qui già è bello grande, il frigo è già c'ha il coso, come si chiama, il congelatore grande con i cassetti e tutto, è bello come quello che c'avevo prima, perché io ho bisogno di un frigo grande se voglio avere la roba come si deve, e quindi mi ho dovuto comprare quello lì, l'aggio dovuto pagare, me l'aggio pagato in contanti, almeno non devo niente a nessuno. Io sempre compro sempre tutto, se devo comprare da buona macchina in contanti, perché due macchine che ho tutte e due comprate in contanti, per quello. Non avevo mai fatto io rate e nessuna cosa, anche quando lavoravo, materiale, tutto, sempre costante, perché è l'unica soluzione, anche la soluzione migliore per non avere mai attaccato. Infatti anche io, se non, a me non mi piacciono le rate, anche io prendo tutto in contanti sempre, non mi sono mai biazzuto le rate, ando in contanti. Stiamo andando, ragazzi, io non mi sento. Purtroppo mi devono arrivare i PL per fare gli spezzi, non posso usare niente qua. 4 watt classe, mi ascolti, più di quello non posso pompare, già lo sai che c'ho l'omologato solo qua, quindi non posso pompare di più, lo so che c'è, io a Giulio già lo sento, anche se c'è la portante, e lui penso che senta a me, cosa vuoi ti dica, purtroppo la gente si diverte così. Io non lo sento per niente, neanche a te. Quindi vi saluto e rimango in quel. Ciao. Ciao, mi dispiace che ci sia la portante qua. Vabbè, ti dovevo dire una cosa, ma se non mi senti lasciamo perdere. A te sembra che non te la metta la portante, anche quando parla Giulio, quindi insomma. Stai così, a me non mi piace, dai. Vi saluto e basta. Ah, io cambia che si spendischi, ti volevo chiamare per salutarti, ma non riesco a capire cosa dici. Natassi, una bomba qua. Lo so, 4 watt purtroppo c'ho, e Claudio non mi sente, c'è la portante anche a Giulio da fastidio un po', un attimo che mi hanno suonato. Ehi, ciao Giulio, se mi ascolti cambio. Ciao Tino, sì che ti ascolto, come no. Anche Claudio già l'ascoltavo, però sto uscendo male qua, di radio, non so per quale motivo. Scusate, io ce l'avevo l'amplificatore attaccato, non è d'accordo. Adesso mi sentite? Abbassa l'amplificazione che stai innescando qua. Anche adesso? Adesso no. Vabbè, sto un cacchio di tono più tre. No, sto usando il soprattutto una 9, mi ha dato Fabrizio, capito, intanto, e quindi lo stavo provando con 747, ma c'è proprio più parte, allora l'ho attaccato, staccato l'amplificatore, sto usando solo il parte della radio, mi senti? abbassa ancora un pochino. Addirittura, così ce l'ho a 4, va bene? Eri troppo forte, sta parlando male. No, no, mettiamo così, dai, va bene, spinge, ma ha detto la più 3, pizzica forte. Va bene, avanti Giulio. Forse abbiamo parlato insieme. Ho detto, oh, cla, anche a 3 va bene, non a 4, anche a 3. A 3, allora, così a 3, va bene a 3 così. Sì, va meglio così, perché sì, sono più modulato, ho capito. Così, praticamente, io veramente sentivo così. Poi anche io ho già te l'ho detto, mi stai facendo male, non so se l'hai ascoltato. Vai sì. Ehi, no, non so se mi hai ascoltato, io sono quasi, vabbè, uscita in sasso, entrata, come vogliamo chiamare, verso le gallerie. Guardi, benissimo ancora, non c'è problema. Sì, l'ho messo a 3, Giulio, così va bene, dovrebbe andare bene, dai. Così, va bene, dai, va bene. Anche se poi potresti anche passare ancora, però va bene così, lascia così, dai. Non c'è problema. Sì che ci sento, va abbastanza bene, Ottino. Va bene, dai, sono qua l'entrata, diciamo, l'entrata che c'è in Via d'Italia, dai. Adesso sto andando verso le gallerie, non so se poi mi ascoltate. Ok, va per quanto sono le gallerie, probabilmente non ti ascolto, però almeno io credo che non riesci ad ascoltarti, perché nelle gallerie c'è stato io un po'. Però no, io non sento più qua. Penso, almeno si sentirà sicuramente fino a Olbia. Giulio, io non ti sento, c'è sta portante per terra, il tavolo io non riesco a capire. Ogni volta che stai innescando. Stai innescando, no? Stai innescando, no, sei una bomba qua, vabbè, sono sul ponte, vedo tutto Sassari, vedo tutte cose. Se lo stavo innescando, sentivo un rumore, invece no, non è quello, già va bene. Se va bene così ce l'ho a 3, lo lasciamo stare a 3. Prova a riprendere Giulio, io non ho parole di proprio. E cosa vuoi fare, Luca? Pazienza. Se uno, oltre che essere difettoso di cuore, è anche difettoso di cervello, pazienza, faccia l'anima sua. Va bene, Natalino, vuoi riprendere? Bianco, per me è entrata a galleria, richiamo quando sono all'uscita la seconda. E io, va bene, Tino. Ok, sì, d'accordo. Natalino, riprendi? Natalino sta chiacchierando in famiglia sicuramente. Avanti, clap. Ehi, positivo. Quindi questo è il Superstar 3009, il portale più 3 da tavolo, infatti siamo circa 10. Ok, sì, va bene. Il radio è anche troppo forte, penso un po', ma comunque già va bene così, non c'è problema. No, vabbè, dobbiamo trovare una soluzione, allora, vediamo un po'. Così a 2 come va? Va anche meglio, così va meglio, perlomeno io ti sento più chiaro, più perfetta la modulazione, perché con l'altra rimane le parole uno sull'altra quasi, perlomeno io ho questa decisione, ma così va bene, comunque anche a 3 andava bene ugualmente. No, vabbè, se va bene così, lo mettiamo così a 2, no, non c'è problema, non è che devo fasciare un gabbo di ciù. Tanto per me siete abituati a sentirmi sempre con le radio abbastanza penetranti del K, quindi questa un po' si assomiglia, diciamo. Sono contento, una bella radiolina, vabbè, io l'ho avuto il 3009, c'è una bella ricezione, funziona bene. E questo è lo stesso 3009, solo che io non posso né salire vatte né niente perché ho omologato, non ho né canali né nulla, perché è chiuso dalla fabbrica, quindi hai sui 4 watt e basta, è un 40 canali, c'ha la SSB, c'ha tutto quello che vuoi, però è omologato e io non rudo che rudago così. Questo ha 3 bande, ABC, SSB, tutto, rosmetro, tutto quanto, capito, va bene. Cosa stavi dicendo Giulio che avete parlato insieme? Ho detto che il 2009 è sempre stato un baracchino abbastanza affidabile, è bello, a me è sempre piaciuto la verità, ma io l'ho sempre consigliato quando qualcuno voleva comprarsi una radio non troppo costoso, modificato molti, capito? Questo invece è normale, però è abbastanza spinto, c'è 8 watt e sulla T250 sta andando con 8 watt, quindi già va bene, già va bene. Ok, vediamo un po' Tino se mi ascolta. Tino? Aspetta Tino, ci sei? Sì, sì, mi ha risposto Giulio, ci metti Ficcio. E Natalino e Giulio non li senti? Ah, capito, vabbè, non sente nessuno, ci metti Ficcio Giulio, vai Natalino. Ok, vediamo un po' se mi sente. Attento Tino, strada facendo mi dovresti sentire almeno per qualche chilometro, vai Tino. No, ti hai sentito Giulio? Non lo so, lo senti tu Giulio a Tino? Sì, adesso l'ho sentito, in questo passaggio l'ho sentito. Tino, vai avanti, nella galleria chiaramente non ti sentivo, però per qualche chilometro già ti sento. Hai sentito Tino? Ma no, non ti sente Giulio. Non ti sente, sente solo a me parlare, basta, dai, non ti sente. Vabbè, pazienza, non fa niente. Non fa niente, vediamo se è rientrato Natalino, Natalino. Adesso sei 9 più 10, Tino, però sei faccia a me, se sei a muro, se lasci i mobili sei faccia a me. Poi come inizi a spostarti sicuramente ti perdo anch'io, Giulio, vai, vediamo se ti sente. Non credo, perché l'ho perso anch'io adesso, in quest'ultimo passaggio che ha fatto l'ho perso, non lo sentivo più. Hai sentito, Tino? No, ti ha perso, in questo passaggio ti ha perso. Adesso di nuovo, adesso ti ho sentito di nuovo, in quest'ultimo passaggio che hai fatto, Tino. Non lo senti, va? No, non riuscite a sentire. Non ti accoppia, non ti accoppia. Vabbè, pazienza, dai, Tino, per forza con un watt non mi puoi sentire, dai. C'è poca potenza, capito, Tino? C'è poca potenza, per quello non lo senti. Ma sei in macchina o col camper? Già, insomma, sei sempre in giro, va? Beh, certo, bisogna contestare sì. Non vedo che non va, bisogna fare. Vieni qua, se batte sta usando, perché adesso lo sento io a lui, o Claudio. Ha detto Giulio, quante volte stai usando, che adesso ti ha sentito. Intorno ai 300 watt sta usando, capito? Un B550 sta usando per la testa G. E vabbè, come 550, sempre 300 watt, insomma. Già sono utili in macchina, dai. No, qua te ne vanno benissimo, Tino. Ok, no, qui stiamo, sì, sta fatto nell'ultimo passaggio che ha fatto, Tino. Mica importante, non te vedo, ma non ha niente. Oh, io devo assentarmi che devo andare in cucina. Comunque vi ascolto, dai. E Antonio, ogni tanto parla Giulio perché c'è la portante, è fortissima ancora. È fortissima, 9.20, quasi 9 più 30 a pieno, molto molto forte. Vabbè, ok, avanti Tino. No, non la mette a te, la mette solo a Giulio. Sempre fisso con QSB in movimento tra 9 e 9.10. Ma è piano, ma ne perdi l'antenna. Ma non è sul carpetto nel fianchetto? Sì, non lo è, pariscio. È sopra il traliccio, il campo è già alto, più l'antenna sta viaggiando alla grande, non c'è problema. Vai Giulio. Ok, qua, vabbè, dai. Vediamo un po', stiamo controllando se c'era la portante, mi ha dato dei gamma di luce. Mamma mia, non mi dicite, mi c'è per l'imenica. È quello che metteva la moglie a battere, per quello ha dei problemi. E allora se la prende con la portante, capito? Ma è forte, madonna, cazzo, non gioco, c'è vicino a me, cosa ne gioco, sono 20 pieno, vai Tino, 9, sei calato a 9, 8, 9, vabbè, io sono vallata, anche se sono a 400 metri a livello del mare, purtroppo la casa è nella vallata, se fosse stata in punta, dove c'è quella del fratello di Roberto, allora era un'altra guba, ma qua non è che posso fare molte cose, però insomma già mi faccio sentire lo stesso, beh. Va bene, 9 radio 5, avanti Giulio. Ok qua. No, stavo controllando se c'era la porta. Sta parlando Giulio. Aspetta che sta parlando Giulio, cosa hai detto? Ho detto alla portante, è quello che faceva, metteva a battere la moglie. Allora lui se la sposa chiamata e poi ti ha chiamato, capito? Però è anche malato di mente. Capito, quello che è, boh, e poi ti ha attrappato, guarda, non ti sento manco sotto, ma il trettino ha schiacciato, l'ho sentito sotto, però a te proprio non ti sento per niente, evidentemente verrà un teco. Buonasera! Perché io sono qui e faccio subito anche, dai, capito? La suocera la mettevo, la voglio abbattere, lui deve facere questa raccolata. Ah, così è. C'è stato un buonasera. Aspetta Tino, avanti, buonasera. E allora buonasera a tutti, Gianni Dottoro, penso di non essere entrato in un momento giusto. c'è importante, sì, non lo so, poi c'è Tino che sta andando a Olbia, vediamo se lo senti. Tino, avanti. Chi è Tino, eh? Dove sei Tino? Cappa, dai, mi ascolti, sì, cappa, dai. Vabbè, mi sono dovuto aiutare perché sennò liscio non mi senti più, c'ho 4 watt. E perché di più ne vuoi usare, pirata, eh? È per farmi sentire. E io positivo, e anch'io sto usando la stessa radio Gianni, 3009, mi ha regalato Fabrizio, cordone più 3 da tavolo. E vatti sono quelli della radio, quindi 8 watt sta andando, non 4, questo c'ha 8 watt. Forse è stato tirato comunque 8 watt. Vabbè. Il mio ne ha 4, io omologato. E anche questo è omologato, ma se ne ha 8, è sempre omologato. Cosa beh, si venga a controllare gli altri vatti alla radio. Comunque si è pensato, cromato, bello. Perfetto, non ho arrivato Fabrizio stamattina. Avanti Tino, vediamo un po' se non sei arrivato, se arrivi qua. Incrocio Praghe, 5-7 e 5-8 per me stai facendo. Vai Giulio. Ok Tino, perché ti adesso? Allora è un monocane, qua. Cosa, il mio? Sarà un monocane, Catania. Una bella radio, io ce l'avevo. L'ho attaccata a 3 più 3, che ha le stesse connessioni di questo microfono, ti dico che spinge parecchio, anzi, ho 3 tacchi in meno rispetto al Galaxy. Sì, sono anche questa è buona come radio, se 3009 è buona, sia di ricezione che... Avanti giù, cava. Non penso tanto lontano perché io quella zona non ce l'ho favorevole, ce l'ho favorevole la zona del mare. Ma tu che antenna c'hai in macchina? Cappa, vai. Avanti Natalino, buonasera. E dai, rimango in ascolto che sto mangiando già. Vi stavo ascoltando. Cappa. Io. Va bene, dai. No, io sto usando il vattisciore, non è un amplificatore attaccato, l'amplificatore ce l'ho sul Galaxy, quello interno, basta. Dove sei arrivato Tino, mi hai detto Praghe? Ehi a Tino! Va bene, faccia come vuole, quasi sempre 5-7 e 5-8, nessun problema. Arrivi, non ti preoccupare, 5-7 e 5-8, ti ho detto, anche discesa di Arda, vai tranquillo. Avanti Giulio, riprendi. Ok, cosa ha telefono? Cosa? Cosa ha detto? Cosa ha detto già? Che al telefono mi è sembrato che ha detto, che è al telefono Giulio, capito? Oia! Mi ha dolore, che faccio? Non mi posso manco muovere dal dolore che c'ho. Vabbè, no, non stavo facendo la voglia a prendere i fabbri. Oggi tutto il giorno, stamattina alle 8 poi ci siamo andati a pranzo fuori, ci siamo rientrati tra noi, sì, sono stanco anch'io un po' insomma la schiena. Va bene, dai. Quindi si può modulare anche con questo già, va bene. A voglia, sembra il Galaxy. Sì, vabbè, poco è da Giambami. Tra il Galaxy, il 3009 e il Pluto, siamo lì, non è che cambia molto. Vabbè. Sì, infatti, diciamo, gli interni sono uguali, quello che cambia è la struttura, anche lui che vuole la sua parte diceva quello. Certo ragazzi, la sua figura è bella, io ce l'ho a fianco alla linea Iaese, un 920 che è un po' più grande del Galaxy, ma è favoloso, una bella coppiata a fianco, insomma mi prendono tutta la base di sopra, infatti c'ho l'820H, l'ho dovuto mettere sopra la 9:20, perché non c'ho posto. Va bene. Già va bene lo stesso, dai. Gappa, gappa. Ehi, dai. Andave. Anche tu hai trovato, come questo sì. Sì, davanti sì, il coperchio è nero, ma davanti è tutto cromato. Sì, sì, anche questo, il coperchio è nero, davanti è tutto cromato. Cava, cava. Vabbè, dai, io tomo un quarto, sono. Io mi ero tanto, un attimo, per decidere con mia moglie cosa dobbiamo cenare, anche se sono abbastanza pieno, ecco. Vediamo cosa si può mangiare stanotte di leggero, dai. Giulio, riprendi. È al telefono, Cla. Vabbè, dai. Ti saluto allora, se stai andando via. Vediamo un po', se è rimasto qualcuno, se lo chiudo anche io, cosa devo fare? A te che ci sono io. Chi non stavi mangiando? Ehi, dai. No, io l'ho lasciato acceso, però vediamo se richiama Martino. Rispondo. Niente, sono qua comunque, vado dall'altra parte a vedere com'era la situation. Io lo sento a Tino, sta chiamando sotto un po', come sa. Tino chiamando stavi? No, sotto quella zona lì è difficile, non so, vediamo se chiama, rispondiamo. A me Domenico Tardaretto mi ha sentito a Olbia, dal porto, mi ha sentito. Ehi, mi hanno fatto big question con Domenico mattina presto, da Olbia, da Oristano, da tutte le parti. Lui, vabbè, comunque, vediamo, arriviamoci a Bidellucci. Ma infatti, sicuramente c'è la propagazione del giorno, perché è difficile, mi dire se sono montagne e cose, prima di arrivare a Olbia è un casino. Vabbè, la parte tua che ha trattato il mare, sì, ma io la Carbonazzi già dominavo parecchio, sfruttando la parte di Oristano, anche a Cagliari, c'è problema. Qua un po' meno perché sono nel costone, però già ci difendiamo lo stesso, non c'è problema, fare due chiacchiere già va bene. Ciao a tutti, io chiudo, ciao. Ciao Giulio, dai. Ti abbiamo chiamato, ma stavi ieri al telefono. Sì, è al telefono, adesso ho finito e adesso chiudo, dai. Ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Claudio, Nasalino e tutti, ciao. Ciao, ciao Giulio, buona serata. Ciao Giulio, buona serata, mi dispiace ogni volta che entri ci sia questo che dà fastidio. Sarà per un'altra volta, ciao, un abbraccio, buona cena. Ciao Giulio. Buonasera, buona cena quando la farai, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime, avanti Gianni. Ehi, cappa cappa, dai. Io acceso tardi oggi perché stavo facendo un conte, se va sempre di canto e non qua alla radio. Di canto. Tutti assenteisti siete, gatta. Mi lasciate da solo qua. Natali, te l'ho raccontato cosa mi è successo? No. Te l'ho detto che per la risonanza magnetica dovevo andare a Nuoro o a Oristano. Beh, mi è venuto il flash, gli ho chiamato al policlinico e il giorno dopo mi hanno dato la visita, che te l'ho fatta già. Visita. Non meno male dire. Già, meno male, se no cazzo di bucava andare in ambulanza. Meno male che l'hai già fatta, sono contento. Ma quello che mi domando io, Natali, quando mai il CUP non sa che c'era un posto? Io ho telefonato alle 8 meno 5, mi sono messo lì sino ad arrivare alle 8 e ho subito chiamato al policlinico. Mi ha risposto e mi ha detto, ma lo sa che fortunato c'è un posto? Se vuole lo facciamo per domani. Io non mi parlo due, ho detto, lei mi sta rallegrando il cuore, così la gente se vuole arrivare. E guarda che la sanità sta andando a catafaccio, caro Gianni. Oiui. Perché non vai anche tu? No, bisogna vedersi mini basi in operazione, che non ha fatto tre. Adesso vediamo. No, due ne hai fatto. Tre con l'altra. E quella là è come quella che devo fare, come se chi sei mani batta ai nobili. Quindi, non lo so se me ne fa. Vediamo. Natali, comunque un esame molto doloroso, è stato, nel senso che mi hanno legato i piedi, mi hanno buttato la cuffietta in capo, mi hanno dato il camice, mi hanno messo un peso sopra il bacino, doveva essere piombo, cosa ne so, ma pesante. Poi mi hanno messo il camice, mi hanno legato i piedi e dovevo stare fermo con i piedi verso l'interno, mi faceva così male quella posizione, stavo pregando che finisse in fretta. Purtroppo è lunga, è brutta la risonanza, io già lo so che me l'hanno fatta, mamma mia, e dura un bel po'. Mezz'ora dura. Lo so, purtroppo, devi stare fermo fermo. Ma le pastiglie per domani. Ah, ce l'hai. Devi stare fermo, mi ha detto non si muova di un millimetro, niente, proprio fermo. E io stavo arrivando al punto, Natalia mi stava avendo nervoso come per spaccare tutto, alzarmi di colpo e non ce la facevo più dal dolore. Io me lo posso immaginare, mamma mia, già lo so già. Ciao, io sto andando. E vai, vai. E poi questa posizione che mi faceva proprio male, mi ha fatto fare, questa posizione l'onfia. E a chi danchi mi copri il tutto, mi, dalla risonanza, già ne c'è poco di roba a pizzo. E speriamo di no, speriamo che non ci sia nulla di grave. Però male mi va di male, il dottore mi ha detto se li fa male per qualche motivo nelle ossa non c'è nulla, e se li fa male per qualche motivo infatti vedranno loro adesso con i risultati della cosa, della risonanza, già vedono tutto, non ti preoccupare. E mi sono preso direttamente l'appuntamento per l'ortopedico. E infatti, perché deve visionare tutto e vedere un po' la situazione, e infatti operiamo a testa arbolicliniche, come non ti va a toccare, impidare, che sono bravi. Lo so, stanno operando con il robot, viene un'equipe da fuori, me l'ha detto un'amica mia che hanno operato il marito, ma non lo so se si tratta di operazione o che cosa devo fare, perché con 20 mili di peso quasi tratti, tricchi, tratti, tratti, ui, pare che sia occupato a pezzi. Me lo posso immaginare, cura gallà che si gosi, ui ui, vabbè. Ieri siamo andati al corso, abbiamo iniziato, torna già. Ah, pensavo al corso assassino. sì, ho capito, quel corso radioamatore. Vabbè, se no poi vi dimenticate, è interessante che abbia preso i libri in mano quando non stavi andando. Poi hai fatto fini, vediamo un po' se c'è il pezzettino, ci sei. Mi avevano suonato, sono andato a aprire la porta. Già. Vediamo se c'è Tino. Tino, ci sei? Attenzione muscolo, se ascolti doppio nulla a Sassari. Niente, dai, deve essere... non ci cupo. Una volta Domenico Tarzanetto mi ha detto che mi ha sentito, che era l'unico che sentiva a Olbia al porto, lo sentiva a me, col Galaxy, stavo modulando, perché usavo il Galaxy quel periodo, e c'è che sentiva solo a me. Ho capito. Ah, non è lui, no, è propagazione. Me lo posso immaginare che... Oh signore, io mi ho ordinato un po' di pelle, mi ho ordinato da fuori perché i noghi è meglio non pigliarmi. La cosa, devo buttarci via tutti quegli spezzoni del cavolo, c'avevo anche il cavo dell'antenna che con quel pelle che ho messo in teflon girava la giura. Natali, ti sto dicendo che io ho fatto 6 spezzoni e sono 12 PL, tutti difettosi, li devo tutti disfare e mettere quelli buoni. Non ne ho adesso, non so poi se li ordinerò. Tu quanti ne hai ordinato? 12 ne ho ordinato. Però mi devo fare gli spezzoni, bisogna vedere se me ne avanzano, te lo do qualcuno. E se non me li ordino io, dai. Perché quelli servono sempre, ti si rompe uno spezzone, lo devi cambiare, cazzo, io li volevo pronti apposta, ne ho fatto sì, ho detto così almeno, se li ho, se mi servono ce li ho già pronti, capito? Ho rotto uno spezzone io per avere il PL per il capo dell'antenna, si girava l'azzurra, dico così senti, il centrale mi girava da solo. già ho preso quelli in macchinette già. E questi che ho preso da fuori sono arrivati? No, non è per quello che sono inguaiato, perché non ho PL. Ah, ecco. Speriamo che questi non siano uguali a quelli che stanno venendo a Sassari, boh. No, già è roba buona. Da fuori li ho ordinati in bacchelite e poi via riproviamo e vediamo un po'. Fatta lì, anche me sono le macchinette, non sono di quelli bianchi, sono le macchinette, solo che non ha vita la ghiera, non ha vita, è corta la filettatura, non ci arriva. La ghiera ne ho io di quelle vecchie, se vuoi dimmi dopo quanti ne vuoi, gli sostituisci la ghiera e vedi un po', li provi prima di piazzarli. Si può fare anche così, ma tanto bisogna smontarle, per mettere le ghiere bisogna smontarle di nuovo. E mi pare ovvio, se sono piazzati li devi dimontare, se non andano bene. È inutile che stiamo lì a girare, bisogna fare così. Ghiere ne ho quante ne vuoi. E magari proviamo, se si può fare, me le cambio, non ha vita, no? Non c'è un apparecchio che ha vita, a dire che sia uno difettoso, no, tutti così sono, non ha vita, girano a volte, se tu continui a insistere ti spara anche la filettatura dell'apparecchio. Figurati, bella spazzatura, ah, dove stiamo andando a finire non lo so io. Vai, Piremo, che mi arrivi in impresa, PL, ne ho ordinato 12, in più mi ho ordinato una base magnetica con la vitatura PL, mi arriva anche un'antenna di quelle piccole bibanda, ma siccome quella bibanda ce l'ho, quella grande, quella piccola la do a chi ne ha bisogno. Cappagà. Io praticamente non ne ho niente di antenne bibanda, roba così non ne ho. Io uso il gommino e buh. Lo so, ma c'è gente che usa gli apparecchi bibanda in macchina che è autorizzato e è logico che si mette l'antenna. Vabbè, dove ti servi tu per comprare questa roba? Ma lo sai che non me la metto in della Giubiliati, mi pare da Hammer Radio Shop, forse. Perché se poi vanno bene magari me li ordino anche io, capito? Se vanno bene tu li provi, se vanno bene mi dici che vanno bene e io li ordino. E te ne ordini una decina, così ne hai, se no è un casotto. Ogni tanto ho dovuto rompere un po' uno spezzone perché avevo il PL dell'antenna, di questa antenna qua, che il centrale girava per i fatti sui. Io ne ho nuovi, ma non avvisano la tarina. Io, se tu lo vuoi, magari che lo trovo, te lo do, non c'è problema, però devi cambiare la ghiera. E io ti do il